siamo molto appassionati di sport, vogliamo tanto bene i nostri beniamini e vogliamo ovviamente che non si ammalino loro per primi. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni. Però attenzione, questi allenamenti saranno consentiti nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. Per gli sport di squadra dovremo ancora attendere. Dobbiamo arrivare al 18 maggio con tutte le condizioni e quei protocolli di sicurezza. Il problema è che questa è una ripresa graduale e per questa ripresa è necessario avere dei protocolli rigidi. La FIGC ha presentato qualche giorno fa un protocollo, proprio ieri sera il Comitato Tecnico Scientifico ha valutato che quel protocollo non è ancora sufficiente e ha una serie di approfondimenti che sono necessari, che andranno fatti in questi giorni. Questi approfondimenti porteranno a una conclusione, solo in quel momento noi potremo dire se riprenderò. Ovviamente, essendo anch'io appassionato come tantissimi italiani, all'inizio mi sembrava strano che il campionato potesse essere interrotto. Credo tutti, anche i tifosi più accaniti, hanno compreso che non c'era una possibilità alternativa. Si valuterà se ci sono le condizioni anche per consentire che possano terminare i campionati che sono stati sospesi. Questo la domenica sera nell'ora abitualmente occupata dal posticipo della Serie A, il palleggio nemmeno tanto coordinato tra il Presidente del Consiglio Conte e il suo Ministro della Salute Spadafora. Però, ciao Pierluigi Pardo. Ciao. Però, mentre dibattiamo di questi temi, questa mattina esce il baffuto patron della Liberty, cioè la società che gestisce il circo della Formula 1, americano, Civic Casey, che dice: la Formula 1 ricomincia, vi dico anche dove, come e quando. Gran Premio di Francia cancellato questa mattina, ma il weekend del 5 di luglio si corre in Austria. Poi si correranno le altre tappe europee fino a settembre, Monza compresa, poi Asia, Americhe, Bahrain fino alla terza settimana di dicembre. Avremo un campionato entro quest'anno, ancora in bilico i possibili recuperi di Cina, Vietnam e Spagna, e poi 15-18 gare. Io saluto e ringrazio il presidente dell'Associazione dell'Automobile Club Italiana e vicepresidente della FIA, Angelo Sticchi Damiani. Buongiorno presidente. Buongiorno direttore. Buongiorno direttore, la ringrazio, non è così, ma comunque ci lavoriamo. Ci attrezziamo. Sì. Senta, eccessivo ottimismo quello di Casey o realismo, decisionismo, comprensione del momento? I problemi sono tanti, le variabili sono tante, perché lei pensi che c'è questa valutazione che in questo momento riguarda l'intero mondo e quindi vari continenti con situazioni molto diverse, chi in calo, chi in uscita, e soprattutto anche delle posizioni diverse dei vari governi. Naturalmente è difficile oggi fare un programma da qui alla fine dell'anno. Certamente stamattina abbiamo saputo che il Gran Premio di Francia, che è stato in forte fino a sabato, fino a due giorni fa, hanno deciso di lasciar perdere, si parla direttamente di 2021. Sì. Rimane in piedi sicuramente l'Austria, io per quelle che sono le mie informazioni dovrebbe essere in piedi anche l'Inghilterra, Silverstone, e poi certo ci sono allo stato, il Belgio è in grande dubbio, e diciamo la verità, sta cercando anche di razionalizzare che fare l'Europa tra luglio, agosto e la prima settembre per evitare spostamenti molto lunghi del tutto il circus di questo spostamento. Certo. Quindi prima tutte le gare europee e poi si andrà in Oriente, Asia America, sarebbero confermati Stati Uniti e Messico? Sì, allo stato sì, c'è in dubbio sì, Singapore, perché anche lì ci sono dei problemi, e poi tenga conto che tutti i circuiti e cittadini, diciamo, non permanenti, ecco, diciamo così, certo, ancora più facile. Certo. Hanno degli altissimi costi di montaggio e smontaggio del circuito. Vediamo, Monte Carlo ha rinunciato, Australia è successo quello che è successo, Canada praticamente ha rinunciato, e notturno, per cui insomma ancora più complicato. Sì. E tenga conto che nel momento in cui si sta cercando di ridurre al massimo i costi, migliorando quanto è più possibile la logistica, la coperta è quella, le entrate sono quelle, il pubblico purtroppo, diciamo, almeno fino a salvo miracoli non ci sarà, almeno nei prossimi anni in Monza, e noi siamo preparati a farlo a porte chiuse, stiamo lavorando in questo senso. Sì. Ma secondo lei quanto c'è di realistico, di possiamo dire ufficiale tra tutte le virgolette che vuole, nella affermazione secondo cui in Austria il 5 luglio si correrà, cioè tenendo conto di tutte le componenti? Il senso della domanda era quello, è realistico? Ma guardi, l'Austria, vi aggiungo una cosa, non dico niente di scherzo. L'Austria ha sottoscritto il contratto per il 2020, cioè in sostanza tenga conto che ogni modifica, porte aperte, porte chiuse, ci sta un addendum da fare al contratto in essere, perché come le immagina, certo, ci cambia tutto. Quindi diciamo che al di là di tutti gli aspetti ci sono anche dei fattori economici. Rinunciare al pubblico significa rinunciare 15, 12, 13 milioni di euro, forse anche di più a Silverstone, che c'è sempre un pubblico enorme, e sono somme che vengono a mancare comunque sul totale. Certo. Che cosa accade? Che accade che il circuito deve essere anche disponibile a mettere a disposizione tutti i servizi. Zero, questo è un peso, certo, si tratta di... quindi, insomma, io so che era oggi l'unica circuito ha sottoscritto il contratto di Bertini per un gran premio porte chiuse è l'Austria, e quindi la Red Bull e Madrid, che hanno trovato un accordo. Gli altri stanno provando, però vedo la coperta è molto corta. Certo, questo era chiaro, ma fin dall'origine del problema. Presidente, grazie, a presto. Grazie davvero. Beh, tutti facciamo il tifo per vedere ovviamente la Formula 1 il 5 luglio. Facciamo il tifo perché il mondo riparta. Sì. Adesso, sai, la sfida è, questo in qualche modo si lega anche a ciò che è stato deciso dal governo e dalle reazioni che ci sono state. Adesso la partita è una partita complicatissima, perché la risposta perfetta non ce l'ha nessuno, però è chiaro che si deve arrivare a un punto di equilibrio il più possibile virtuoso, non so dirti se il più possibile perfetto o il meno possibile imperfetto, fra le esigenze sanitarie e qualche rischio che comunque ci sarà nel riaprire, certo, le attività, e il fatto di non condannarsi però a una alla fine. Infatti, cioè, ma il tuo umore della domenica sera all'ora del posticipo, qual era ieri, Pier? No, ma il mio umore, allora, innanzitutto io credo che se guardiamo la situazione italiana ci sono, e questo un po' mi ha stupito da parte del governo, però capisco che insomma ci saranno dei motivi, delle strategie, ci sono delle diversità fra area e area che sono enormi, nel senso che oggi fortunatamente possiamo dire che 14-15 regioni hanno resistito in maniera molto significativa a questo virus, nonostante tutte le ansie che c'erano, giuste. Ovviamente è chiaro che hanno resistito anche perché c'è stato lockdown, questo è indiscutibile. Uh-huh. Però è altrettanto vero che ci sono anche grandi città. L'altro giorno c'era il caso di Napoli con 0 contagi in un giorno, anche a Roma c'è una situazione che è abbastanza tranquilla da questo punto di vista. Quindi io credo che soprattutto chi abita in quelle aree sia rimasto un po' deluso, no? dall'apertura soltanto parziale, dalla ancora prudenza, da questa fase 1.5 così come è stata definita da alcuni. Di contro ci sono altre realtà del paese dove invece la situazione è molto più complicata e sono anche realtà nelle quali dal punto di vista dell'industria pesante sappiamo che c'è un impatto molto forte, no? Perché c'è una grande, sono le zone della grande manifattura, quindi è un discreto casino e credo che il rischio, guarda, la speranza me la danno i medici in questi giorni, perché sì, i medici, certo, leggendo, certo, le varie interviste, ci dicono che se anche il virus non si è imborghesito, perché questo ancora non è chiaro se si sia o meno imborghesito, però oggi comunque i medici hanno un protocollo e una esperienza, cominciano ad avere un po' di esperienza che fa sì che dai primissimi sintomi i malati, parlando con i medici, possano adottare i comportamenti giusti e quindi, leggevo per esempio Mantovani, e quindi che ci sia una situazione migliore rispetto a prima, però è ovvio che il rischio zero, il contagio zero c'è, forse in Cina oggi, forse. Sì, ecco. Quindi finiamo tutti i campionati del mondo in Cina, per massimo, tutti in Cina per massimo del paradosso. È diventato il posto forse più sicuro. Forse viene anche Alessandro Barbano, cosa dici? Terribile battuta, eccolo. Ciao Alessandro. Vieni anche tu in Cina a finire tutti i campionati di tutti gli sport? No, spero di no. Io spero di finire in Italia, anche se mi pare che ci sia molta confusione sotto il cielo dello sport, come abbiamo scritto oggi. Sì. Purtroppo quello che è accaduto ieri è un po' increscioso, perché a fronte di un'apertura del Presidente del Consiglio c'è stata una correzione da parte di un suo ministro che ha pensato bene di fare una conferenza stampa bis nel salotto di Fazio 10 sì, minuti dopo sì, che era finita la prima conferenza stampa. E questo è già irrituale. Che si mettessero d'accordo, insomma. E che si mettessero d'accordo. Non sono d'accordo, evidentemente, questo si è capito, e soprattutto si è capito che Spadafora non ama lo sport. Adesso lo ha detto io lo rispetto, lo devo rispettare. Questa frase, lo devo rispettare. E lo devo rispettare non significa che io amo il calcio. Il calcio a Spadafora non piace. E probabilmente in ragione di questo fatto, e anche forse dell'idea che portando lo scalpo del calcio sul piatto di una trattativa che lui sta facendo all'interno della sua compagine politica per assumere un ruolo determinante, il calcio è l'agnello sacrificale di questa pandemia, perché paga una sensazione che ci sia un po' di demagogia in queste discussioni. Guarda, nelle democrazie fragili questi fatti scatenano atteggiamenti, per così dire, illiberali, e poi sia lo statalismo che pensa di ricondurre tutto sotto il controllo dello Stato, i provvedimenti di divieti e sanzioni anziché il cosiddetto citizen empowerment della popolazione, cioè la responsabilizzazione collettiva, che sia l'intransigenza moralistica che ci fa dire che il virus è la condanna al capitalismo sfrenato e quindi il calcio in quanto simbolo di questo consumismo con i suoi ingaggi stellari deve pagare le colpe. Ecco, sono tutti meccanismi comprensibili che poi inducono un paese a chiudersi, perché le reazioni autoimmuni che la democrazia attiva contro l'epidemia sono talmente esagerate, disreattive rispetto all'obiettivo, che attaccano la democrazia stessa. Il calcio si sta suicidando con un meccanismo di questo. Sì, resta il fatto comunque che alla luce, fatemi capire, di quanto detto ieri sera, fatemi capire che non si capisce niente, perché più tardi, Pierluigi, sentiremo Elisa Di Francesca, no? Che massimo del paradosso, è a casa però non ha ancora capito bene se si può allenare o no, perché scherma lo sport individuale. Siamo tutti d'accordo sul fatto che il bacino delle medaglie dello sport italiano, insomma, è inutile stare a spendere parole con la mascherina, proprio per definizione. No, però mi sembra paradossale. dobbiamo farci un po' forza tutti insieme. Ma sì, ma poi alla luce di quanto detto ieri sera, fammi capire, Immobile potrà andare di corsa a trovare i parenti? Dybala dovrà andare a correre lungo il Po sempre che lo faccio entrare nel parco? C'è qualcosa che mi sfugge, oggi c'è un comunicato dell'Inter che dice, boh, noi siamo basiti perché alla Pinettina abbiamo... Quello che dice Lotito oggi sul giornale, abbiamo diversi campi, molto spazio, diversi spogliatoi, abbiamo organizzato tutto quanto per allenamenti individuali, però non possiamo farlo. È chiaro che c'è una discrasia, no? Tra la situazione attuale e quella che dovrebbe teoricamente essere, no? Mi sbaglio, Pier? No, non ti sbagli assolutamente, e capisco che non si sia capito quasi nulla, cioè io ho capito che dal 4 possono ricominciare gli allenamenti individuali, poi fra due settimane dopo, dal 18, cominceranno quelli di gruppo per provare una ripartenza a quel punto, però non prima dei primi di giugno, credo, non intorno al 10 giugno. E la sensazione è che sì, che lo sport sia stato visto in maniera un po' così, un po'... Come ci diciamo da giorni, no? Un po' come un divertimento per ricchi o un passatempo marginale, e forse anche in sintonia con quello che è l'umore del paese. Insomma, non mi sorprendono quei sondaggi in cui si dice che ovviamente la riapertura del campionato non sia in cima alle priorità e alle attenzioni degli italiani, e in qualche modo lo condivido pure, nel senso che onestamente col periodo che abbiamo vissuto, con tutti i morti, con tutti i bollettini, pure a me, voglio dire, interessa relativamente, però lo sforzo è immaginare che la vita vada avanti, lo sforzo è programmare l'andare avanti. Pure Macron in Francia, e anche lì ci sono delle critiche, quando ha detto che l'11 maggio i bambini devono tornare a scuola, è chiaro che si è preso un rischio, forse anche troppo grande, non lo so, però voglio dire, bisogna da qualche parte pur ricominciare. E il calcio, come ripetiamo sempre, non è soltanto un divertimento così per ragazzini, ma è un settore economico importantissimo del paese e vive, come tutti gli altri settori economici, di un rapporto con gli altri paesi. Quindi no, anche poi, lì c'è una competizione serrata. Sì. Esatto, ma alla fine stiamo aspettando grosso modo tutti che la Germania apra le danze, poi vediamo cosa succede altrove, perché la Germania le riaprirà, e le riaprirà tra non moltissimo. C'è ancora dibattito lì, però ci sono idee molto più chiare. Quello che io non riesco a capire, e chiedo aiuto a voi, ma perché un professionista dello sport, che sia Ronaldo, Federica Pellegrini o Elisa Di Francesca, insomma, è una macchina umana molto potente e molto delicata, che ha bisogno di allenamento, ha bisogno di mantenere determinati parametri. Ora mi dite perché un giocatore di calcio non può andare alla Pinettina, da Piano o a Formello, a fare allenamento da solo a distanza di sicurezza? E poi c'è questa continua sovrapposizione tra la figura dell'atleta professionista e quella dell'atleta dilettante per piacere, eccetera, che io trovo totalmente fuori luogo, Alessandro. Passiamo alla follia. Perché è stata scelta la disciplina come discriminante? Quindi discipline individuali sì, ma non allenamenti individuali, discipline collettive. È una follia. È come quello, l'altro giorno il vice ministro della salute ha detto che si può fare la passeggiata al parco, ma non più di 40 minuti. E perché? Perché 40? Chi l'ha stabilito? È chiaro che siamo in una situazione in cui abbiamo messo un sinedrio sacerdotale incontestabile a fare delle valutazioni virologiche, sanitarie giuste, ma che si proiettano su decisioni politiche senza alcun filtro. E quello che diceva giustamente Macron, ha assunto una responsabilità. Bisogna comparare l'obiettivo epidemiologico ai costi sociali ed economici che determina. E perché se no è evidente che la fase 2 non si potrà mai aprire. La fase 2 è accettazione del rischio, e quindi accettare il rischio significa costruire una strategia fondata sulla responsabilità e sull'efficientamento di servizi strutturale, organizzativo e culturale. Purtroppo non siamo pronti per questo, non siamo pronti perché non abbiamo ancora neanche il prezzo delle mascherine, non abbiamo gli ospedali Covid, non abbiamo la medicina di base, è evidente. Ma anche culturale, quando uno si dice ma se c'è un positivo, un giocatore positivo, si chiude il campionato, e questa è una regola di ingaggio della fase 1, nella regola di ingaggio della fase 2, se c'è un giocatore positivo o se c'è un dipendente della Fiat positivo o se c'è un dipendente di Radio 24 o del Corriere dello Sport positivo non si chiude Radio 24, si fanno i tamponi selettivi a quelli che li stanno attorno e si continua a lavorare, perché questa è significa convivere con il rischio. Sono d'accordo. E nella fase 2 aggiungo, e mi riaggancio a quanto detto prima, è inimmaginabile che oggi le regioni del sud e del centro debbano aspettare l'evoluzione dell'epidemia nelle regioni del nord, perché questa decisione spacca il paese. Quando si dice deve essere un paese unito, ma sono queste decisioni, un paese unito significa unito nello spirito, ma ci sono delle differenze epidemiologiche che non puoi chiudere la Basilicata. Non c'è dubbio. Devono essere delle idee, delle procedure. Non c'è dubbio. Il tema dei tamponi, ragazzi, è fondamentale. Qui voglio dire, adesso non voglio fare l'epidemiologo o il virologo, però dobbiamo avere delle certezze. Non si può andare avanti così per statistica, al di là delle cose che giustamente Conte ha sottolineato in conferenza stampa e che credo che siano ormai parte del kit di cognitivo delle persone, cioè tutti abbiamo capito dai virologi le cose che possono essere pericolose, le distanze da rispettare, le mani da lavare, le attenzioni, quindi io su questo sono ottimista. Posso aggiungere una cosa, mi risulta che nella riunione del comitato che doveva valutare il protocollo della FIGC, che è stato poi bocciato, una delle valutazioni fatte da uno dei rappresentanti, non faccio nome, è stata quella di dire sì, il tampone non è eticamente giusto che le società facciano il tampone e poi questo tampone non lo faccia la gente. Allora, questa è una decisione che non spetta all'autorità scientifica, spetta all'autorità politica, la quale sa perfettamente che se assume che la ripartenza del calcio ha un valore simbolico per il paese, perché la più grande fabbrica di emozioni del paese, che ha un valore anche economico per l'economia del paese, è normale che Ronaldo, in ragione del servizio che svolge, come lo spazzino che pulisce la capitale per 1500 euro, abbia il tampone. E questo non deve urtare la sensibilità di nessuno. Diverso è Ronaldo che scappa in Portogallo grazie a un tampone in fase di lockdown. Ma queste valutazioni non le può fare un comitato scientifico, le deve fare l'autorità politica. Invece noi abbiamo delegato in toto valutazioni di questo tipo a persone che si sono insediate nella stanza dei bottoni e ci stanno dettando le condizioni della nostra esistenza. Poi sono imprese, i club sono imprese private. Oggi leggevo, come avrete fatto anche voi, l'intervista di Lotito su Repubblica, il quale dice: io per la mia azienda di sanificazione, pulizie, i miei dipendenti, ho preso determinate precauzioni, ho comprato tamponi, ho comprato le attrezzature, eccetera, eccetera. Lo stesso ho fatto per tempo per il mio club di calcio e dunque rientra totalmente nella disponibilità privata questa. Filippo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, grazie per la convocazione. Lei. Niente, volevo solo rilevare il silenzio assordante di alcune federazioni tra virgolette minori, la Federnuoto, la Federazione Atletica Leggera, la Federazione Italiana del Pallacanestro. Si sente solo parlare di calcio e loro non mi sembra che esprimano nessuna opinione, e questo secondo me è un silenzio veramente grave. Non tanto, ovvio, è importante l'aspetto sportivo per quanto riguarda i professionisti, ma esistono anche tanti ragazzi e ragazze che hanno letteralmente da due mesi che hanno completamente finito l'attività sportiva e forse inizieranno a settembre, ottobre. Evidentemente ci vogliono obesi, come si vuol dire, obesi, fuori forma, insomma, quello che... No, per amor del cielo, va bene, una tragedia come questa allo sport probabilmente è giusto che passi il secondo piano, e va benissimo, ci sta. Però io comincerei a pensarci, insomma. Ecco, sì, tutto qua. Era su, che volevo... Lei intende su tutta l'attività di base che... Qui mi sembra, da qualche punto di vista può anche essere... comprensibile che chi spinge di più sono gli sport che hanno interessi economici molto importanti, questo è abbastanza evidente, ma ripeto, fa parte della vita, insomma, non starei a scandalizzarmi più di tanto. così come assolutamente non mi scandalizza il discorso che faceva Barbano prima, cioè fa parte assolutamente della vita. A me risulta, come dicevo l'altro giorno, che in Bundesliga già abbiano un piano di tamponi, di 200 tamponi per ogni singola partita di Bundesliga che verrà giocata, e non è uno scandalo. Cioè, lo scandalo è che i tamponi non ce l'abbiano gli infermieri negli ospedali, lo scandalo è che una persona che ha dei sintomi e che sta a casa in isolamento domiciliare non abbia i tamponi, questo è lo scandalo. Lo scandalo è che non ci siano state le mascherine, non che determinati settori economici importanti del paese, il calcio è fra questi, abbiano i tamponi, così come ce li devono avere le aziende che ripartono e che riaprono dalla Ferrari in giù, no? E quindi cioè, fa parte, secondo me, della sempre di questa visione per cui il calcio viene fatto passare come un mondo di raccomandati. Non è solo un mondo di raccomandati, è una grande azienda del paese, è una grande filiera del paese, ed è ovvio che abbia tutti gli strumenti. Ma il problema è che non è il calcio, è chi non è il resto del mondo che se non ha questi strumenti è grave. No, al di là del ovviamente di ogni demagogia di cui in questo momento non si lesina certo una discreta quantità. Una cosa, Alessandro. Leggendo anche oggi lo titolo, mi ha ricordato che c'è una scadenza che, se non sbaglio, è il 1° maggio, entro cui le televisioni dovrebbero pagare a calcio diritti per partite che non si sa se ci saranno. Lo titolo ha confermato: no, non ci piove, noi quei soldi li vogliamo, non siamo tutti d'accordo sul punto, ma quei soldi li vogliamo. Sì, questa è anche una pretesa di alcuni presidenti che hanno pensato bene di ragionare in questo modo: gli stipendi non li pago, i soldi delle TV li pretendo, no? E in questa maniera ho risolto: non pago i calciatori, mi prendo i soldi delle TV per un campionato che non c'è, ma così come i calciatori, evidentemente, come le società possono eccepire ai calciatori che la mancanza della prestazione giustifica la riduzione degli ingaggi, è evidente che le TV potranno eccepire alle società di calcio che qualunque contratto evidentemente non può non tener conto di disposizioni di legge che stanno sopra il contratto e che prevedono l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, l'eccessiva onerosità, cioè sono principi di legge che non sono derogabili. Quindi è difficile che le società possano pensare di vincere in toto questa causa con le TV, perché si sentono blindate da un contratto di servizio della Lega con Sky e DAZN, è chiaro. Queste sono, diciamo, anche perché le TV non sono il padrone dalle belle braghe bianche che ha sempre le palanche in tasca, prima o poi finiscono anche lì. Esatto. Non puoi spremerle oltre ogni possibile immaginazione. È evidente, perché poi gli stessi abbonati di Sky disdettano i contratti di abbonamento, è tutta una catena che si ferma. Allora, o si assume, come un grande paese deve fare, una responsabilità su questo fronte, oppure la responsabilità viene meno e si dicono delle cose. Mi permetto anche al lettore, al radioascoltatore che faceva notare gli altri sport. Il calcio è diverso dagli altri sport, perché il calcio attiva in questo paese un'economia che è incommensurabilmente diversa da quella di tutti gli altri sport, e il calcio finanzia tutti gli altri sport, perché il gettito del calcio finanzia le federazioni attraverso il CONI. Quindi non possiamo non tener conto di questa diversità. E il calcio di Serie A è diverso dal calcio di Serie C, perché è evidente che questo è un calcio che va giocato senza pubblico, perché il pubblico non è compatibile con il rischio epidemiologico. Certo. Ma l'unico calcio che si può giocare senza pubblico è un calcio che ha un ritorno televisivo. Allora, certo, questa è la realtà. Poi se la realtà non ci piace, ce ne dobbiamo fare una ragione. Il Prato deve avere la stessa considerazione del calcio in questo momento. Assolutamente. Ma poi anche se le federazioni, nuoto e scherma, eccetera, eccetera, non hanno fatto sentire la loro voce, lo hanno fatto attraverso i loro atleti di punta, che anche l'altro giorno, poi sentiamo Elisa Di Francesca, Federica Pellegrini, che ha detto: attenzione, perché noi sportivi professionisti di massimo livello abbiamo l'esigenza di ricominciare ad allenarci. Alessandro, grazie. Grazie, alla prossima. Grazie a voi. Ciao. Allora, Pier, sentiamo la borsa. Poi celebriamo, spegniamo delle candeline, celebriamo un compleanno, se ti va. E poi ci collegheremo con Madame Di Francesca. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati. avvocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Convocati. Parte il corso di Quasimodo. Uscito in una protesta. Precede tutti i difensori del Milan e mette nel sacco. Inter 1, Milan 0 al 14esimo. Peccalossi, l'uomo più pericoloso, l'uomo più fantasioso della squadra nerazzurra, si presenta con un gol veramente meraviglioso e porta in vantaggio l'Inter al 14esimo. Tanti auguri, Becca! Come? Ah, sì, perché sono gli anni di grazie, ciao! Ciao, non è il suo compleanno di Evaristo Beccalossi, però il 27 aprile 1980, verso le 5 della tarde, come direbbero in Spagna, Mozzini strozza un sinistro dal limite dell'area che va a fil di palo nella porta della Roma, 2 minuti dalla fine, è 2-2 e scudetto all'Inter numero 12, accadeva qualche anno fa. E Becca. Sì, anche aspettavo, perché stamattina mi hanno svegliato e credo che è 40 anni, siete sicuri? No, ci dovevo credere, sono passati 40 anni, porco cane, no vabbè, è bello perché in questi giorni insomma ricordi un po' delle cose stupende e soprattutto con quella squadra lì che mi lega tuttora, ci troviamo una volta al mese ancora. E, ah sì? Quindi sì, assolutamente, anche perché tutti hanno avuto un percorso diverso dall'altro, quindi 2 anni fa ho detto forse è ora che ci rivediamo un attimino, anche a fare qualche bella cenetta. E sono tutti gli aneddoti belli, perché stamattina quando si parlava tra messaggi, qualcuno mi ha chiesto i danni perché doveva correre per me. Ah sì? Sì, chi era? Marini? Oriali? Vabbè, io ho avuto culo che c'avevo dietro quei Bartelli lì che... e però gli ho detto ci mancherebbe altro che non correvate, però ecco, si scopre un po' ovviamente. No, ma tra l'altro quella lì praticamente, a parte che è stata l'ultima squadra italiana a vincere uno scudetto senza stranieri, poi arrivarono Proasca, arrivò il tuo amico Hansi Müller eccetera eccetera, e arrivarono tutti gli altri stranieri. Per carità, io credo che quel gruppo lì senza, ma lo dico convinto già da allora, perché con qualcuno ho avuto dei problemi, però credo che quella squadra lì fosse in grado di aprire un ciclo. Noi abbiamo vinto il primo anno e poi con l'apertura delle frontiere credo anche che le altre squadre si siano rinforzate molto di più di noi, con tutto il rispetto di Herbert che è un bravissimo professionista quindi rispetto per tutti, però credo che le altre hanno colmato quella differenza che ci poteva essere con l'acquisto di stranieri importanti. Sì, era una squadra praticamente milanese, Pierluigi, quella. No, sì. Ma poi l'Olimpia c'è il derby così che ha 7 giocatori che venivano dal settore giocatore. Sì, pazzesco. Quindi la roba che ne dia. Poi 2 o 3 stranieri da Brescia, uno da Sommino, Pasinato nel Veneto. Eravamo 12 stranieri nel settore giocatore della Vinta. Sì, sì. Tu eri troppo piccolo, ma io ero allo stadio, quel giorno lì. Io ero piccolo, sì. Io non onestamente. No, io in realtà ricordo perché ero un bambino abbastanza particolare, nel senso che leggevo il Guerin Sportivo a 4 anni, so che questa cosa possa essere usata contro di me, ma lo devo rivendichi. Dire, ci sono testimonianze, forse a 5, forse a 4 no, diciamo nel 79, già, quindi ho dei ricordi, ho assolutamente dei ricordi, e sono dello specifico, non della partita ecco in questione, però insomma sicuramente è stata una grande Inter, erano anni belli, insomma tante volte si fa della retorica su queste maglie di lana, su questi numeri dall'1 all'11, sapete che io non sono un passatista, sono ad esempio a favore dello spezzatino in tutti i sensi, anche quello calcistico, perché penso che vedere tante partite sia divertente, però sicuramente, e devo dire che in questi giorni di grande quarantena siamo bombardati, no, da immagini del calcio di una volta, dello scudetto del Cagliari ai mondiali, e devo dire che fa un certo effetto. Io devo dire sono un grande fruitore di Rai Sport nel pomeriggio. L'altro giorno, pensa un po', ho visto uno speciale d'epoca su Evaristo Beccalossi. Poi che... va piano con l'epoca, di qualche anno fa, hai capito bene? Figurati che lo speciale era già d'epoca sull'epoca, perché era una cosa di qualche anno fa, no? Però facevano rivedere proprio quei tuoi due gol nel derby, e poi parlavano benissimo di te, c'era un tuo ritratto di Beppe Viola, una roba pazzesca. Grande, Beppe, grande, veramente. Ma io mi sono, allora, ho scoperto delle cose in questa quarantena, no? Cioè, delle cose che non avevo mai visto. Per esempio, ho scoperto che allora, siccome avevo anche altro da pensare, ho scoperto che sono riuscito a far gol di punizione col destro e poi col sinistro, e calcio di rigore prima di destro e poi di sinistro, cosa che non avevo mai visto. Ma veramente? Sì, però sai, i giornalisti di oggi, voi giornalisti siete molto più preparati, io sono antico. No, parla per Pardo, di... cioè, quando, lui è preparato, questi, io no. Quando guardi questi video ti senti, cioè, qual è l'effetto sorpresa? Ti trovi più forte o meno forte di come pensavi? La domanda è filosofica. No. Rimango sbalordito perché non mi ricordo che uscivo, cioè, e forse è stato anche un mio limite, perché lì non è come adesso che sono tutti calcolatori, cioè lì era tutta una roba istintiva, ma anche l'approccio alla partita, durante la partita avevi il tempo di sentire i commenti perché la gente veniva vicino al terreno di gioco, cioè tutte quelle sensazioni. Finita la partita facevi le interviste ancora negli spogliatoi, mi ricordo, con l'accappatoio, con brutto vizio che ho io, e parlavi con i giornalisti, andavi in campo, e quindi quelle cose lì, capisco anche che il calcio è cambiato, per carità, massimo rispetto, però io che a 22 anni vedevo tutte quelle cose lì, in partita quelle cose, non riuscivo a ragionare, ero molto istintivo. Sì, ma hai raccontato una volta che quel famoso primo gol nel derby è una cosa che non si insegna, su cross di Pasinato, l'hai tagliata col destro, tra l'altro, sul palo opposto, ma io mica ci ho pensato a fare quella roba lì, mi è venuta appunto. No, perché il pensiero era vai o non vai, perché non ero uno che cercava di dire vado e poi non arriva. Però ho detto vado, perché tra l'altro prima della partita qualche cranio aveva detto che sul campo pesante uno tecnicamente non poteva giocare, quindi nelle probabili formazioni c'era sempre tra parentesi. E quella partita lì che c'era campo pesante, il mio pensiero diceva come cavolo fanno, cioè avevo fatto i due errori, primo il gesto istintivo, cioè il gesto tecnico lo ritengo un altro tipo di gol, non quello ho messo il piattone perché seguito l'azione. Sarà un altro tipo di gol, però io e Pardo quello lì non riusciamo a farlo, cioè, no, neanche assolutamente se ci no, per ma poi tutta voglio, la vita. voglio dire che puoi metterti tra parentesi per colpa del terreno, era un complimento, cioè il punto era, sarà il terreno all'altezza, sarà degno delle giocate di Becca, questa era Pierre, avevo preso due giornalisti importanti, perché era un periodo che dicevo, per giocare io devo fare la danza della pioggia, dare la danza per il sole. Uno quando sta, poi può essere la partita che giochi male, sia sul campo buono che sul campo brutto, ma non mi piaceva la prevenzione che dall'esterno diceva, c'era un dubbio, no, tecnicamente bravo e leggerino, gioca uno che corre, e quello mi dava molto fastidio. Ma rispondi alla domanda di Pardo, quando ti rivedi in quei filmati dici ma che bravo quel numero 10, dici ma come facevo a fare quelle robe lì, o dici quanto correvo? No, ma è vero, no, correvo no. Correvo lo escludiamo per a prescindere. Come idea. Però, veramente, cioè, poi i 3 o 4 che c'avevo dietro, perché a volte mi dicevano ma oggi giochiamo in 10 o giochiamo in 12? E dicevo, non sapevi mai com'era, però ti ripeto, veramente sono riuscito a divertirmi e un calcio più libero mentalmente, perché non... Cioè, noi abbiamo avuto un braccino corto forse con la Roma, l'ultima partita che ci dava lo scudetto matematicamente. Lì abbiamo sentito un po' la, la pressione, mentre le altre partite su tutti i cambi andavamo malezza, non si sapeva quello che poteva succedere. Sì, quella partita lì a due minuti alla fine eravate sotto di un gol 2-1, segnato Mozzini appunto due minuti alla fine, unico gol che ha fatto nell'Inter, peraltro giocava stop per chi non so rimasto. Dentro che lui era immagino, sì. Quindi lo meritavamo, però quegli anni lì c'era la Juve che già vinceva, quindi lì li avevamo dati dai a San Siro, insomma 4-0, cioè quando battevi la Juve che vinceva, per noi che eravamo un gruppo di giovani ragazzi, veramente era una bella sfida e io personalmente poi mi casavo anche, ero più pericoloso quando facevo magari una partita con una squadra non così forte, ma quando c'era la Juve ti dava degli stimoli incredibili, perché insomma vai a vedere con la formazione di Gentile, Tardelli, Giove, il povero sì, Scirea. Più o meno succede anche adesso, Becca. Non è che fosse un'esclusiva dei tempi. Quanto di fatico c'è, fatti la più forte. Senti, domanda classica che in 100 anni non t'ho mai fatto, ma il più forte con cui hai giocato e contro cui hai giocato? Vabbè, contro cui? Io devo guardare gli angeli custodi, perché lì allora si marcava, una volta sono andato in bagno e c'avevo uno attaccato dietro, perché lì si marcavano a uomo. Però dico, con Real Madrid, insomma, ho avuto un po' di gente, gli appassati, di Da Del Bosque, da Camacho, Stiliche. Cioè, quelli erano martelli pneumatici, per prenderla dovevi andare da portiere qualche volta per lo scambio. Cioè, e poi, no, con attaccanti, vabbè, io ho fatto credo 3 anni con Spillo, e Spillo secondo me ha fatto 3 anni che è stato più forte centravanti che c'era in circolazione, ci conoscevamo, ci diceva che come fate a provare gli schemi? Abbiamo mai provato niente, erano tutte cose istintive e no, i misteri del calcio. Sì, poi Pier, qualcuno potrebbe dire Spillo segnava così tanto che c'era Beccalossi che gli dava la palla a essere buoni col Becca. Ma è oggettivo, cioè, insomma è una delle partnership direi più bello partnership, ho usato volutamente l'espressione non vintage, però voglio dire, era una delle connessioni più belle del calcio italiano, quindi voglio dire, a parte come Mancini Vialli, cioè stiamo parliamo di due elementi che si legano in maniera indissolubile, uno finalizza, l'altro costruisce, poi qualche volta segna pure Becca, dai, su, non buttiamoci giù. No, quella stagione 7 gol. Però sai cosa voglio aggiungere, la cosa che poi stando insieme, perché io e Spino eravamo cresciuti insieme a Brescia, dal tipo di movimento che facevi l'altro capiva cosa poteva avere nella testa, che non era semplice capire quello che aveva in testa, e quindi mi ha ulteriormente aiutato a risaltare le mie qualità, perché lui sapeva effettivamente quello che facevo e mi metteva in condizione di fare bella figura. Sì, questo è fondamentale, ma l'ho sentito dire da molti, compreso ad esempio Costa Curta, che diceva beh, io sapevo esattamente dal linguaggio del corpo come sarebbe uscito Sebastiano Rossi, dove sarebbe andato Baresi, lo sapevo già prima, ma perché li conoscevo profondamente. Questo è una dei tanti segreti di Pulcinella, di quelli forti. Pensavo prima fino all'inizio di quest'anno, pensavo che alla legge dei numeri tondi l'Inter ha vinto lo scudetto nel 1910, 1920, 1930 tra targata ambrosiana, poi nel 2010 è successo quello che è successo. Fino all'inizio di quest'anno, di questo dannato 2020, pensavo fosse quasi l'anno buono per l'Inter. Ma è difficile, perché guarda, cioè veramente parlo perché è un ricordo nostro di 40 anni, però parlare di calcio in questo momento veramente, cioè sì, è stato fatto un grande salto di qualità, perché si è stata anche intensa la classifica, quindi si faceva pensare, però da quando è scattata l'emergenza, cioè io faccio fatica a pensare cosa poteva fare, cosa si poteva non fare, cioè adesso cerchiamo di uscire da questa cosa pesante che ha colpito tutti, quindi poi torneremo a parlare di calcio in modo come abbiamo sempre fatto, credo, però non mi va, cioè, non voglio pensare a quelle cose in questo momento. Sì, non fammi pensare al prossimo compleanno tondo per parlare di calcio, perché allora sarà il 2020 e gli anni saranno 50. Dai. Ciao Becca. Ciao. Tra l'altro domani è il compleanno di un'altra grande partita dell'Inter, cioè il famoso Barcellona-Inter, giorno del triplete, magari proveremo a farvi una sorpresa. Intanto ci fermiamo un istante, sentiamo il traffico, Vi ricordo i nostri contatti 800 24 00 24 per le telefonate, 349 238 6666 per i WhatsApp vocali. Grande Becca, io ti amo, ti amerò sempre. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Allora, Pierluigi Pardo, come ti ho anticipato prima, salutiamo insieme Elisa Di Francesca. Certo. Il ritorno. Un grande piacere, un grande piacere. Ciao, Elisa. Con la domanda di partenza. Ciao. Hai capito che puoi fare? Se ti puoi allenare, se non ti puoi allenare, se ti puoi allenare con un avversario oppure no. Se la mascherina, aspetta un attimo, siamo calmi. Il decreto era abbastanza chiaro, adesso al di là. Si riparte, è giusto che si riparta per l'economia del paese, no? Per le persone che comunque stanno risentendo a livello economico di questa situazione, però il virus c'è, quindi dobbiamo convivere con questo virus e essere magari un po' più liberi ma con molti più accorgimenti, quindi ecco, questa è una fase secondo me alla quale prestare molta più attenzione rispetto a prima. Certo, bisogna avere molto più senso di responsabilità, ma nel concreto, Elisa, la scherma rientra tra per voi atleti del massimo livello tra le attività che potranno essere praticate pseudo normalmente oppure no? Io questo allora, non ho capito. La scherma è uno sport particolare perché seppur individuale è anche a squadre, il nostro allenamento consiste nell'allenarci l'uno contro l'altro, no? Quindi con degli avversari, con dei maestri, con dei fisioterapisti, e quindi se sarà dal 18 maggio ancora non si sa, perché comunque io non ho avuto modo di sentire il commissario tecnico, la federazione, se staranno pensando, staranno lavorando in base a tutti gli accorgimenti da prendere, perché comunque lo sport è sport, sai, no? La passione, il sudore, il sacrificio, l'energia che spendi per stare attento e poi dopo non la metti nell'assalto, no? E dopo diventiamo un formaggio a buchi. Quindi ancora chiarissimo non è se il fatto che si riprenda, ma prima un ascoltatore diceva, ma sono rimasto sorpreso, diceva un ascoltatore di Monza, del silenzio di tutte le altre federazioni che non siano quelle del calcio. Tu sei soddisfatta dell'operato della Federazione Scherma e più in generale dell'operato del CONI in questo momento dal punto di vista politico-sportivo? Beh, allora io sono soddisfatta, mi ritengo soddisfatta perché so che staranno prendendo tutte le precauzioni possibili. Per quanto riguarda il calcio aveva, da un lato ha bisogno di ripartire perché comunque ci sono degli interessi, no? Che vanno oltre, interessi economici come sappiamo e anche interessi di tutti i tifosi che stanno a casa, no? Quante persone, penso a, non so, gli uomini o le donne, anche gli amici che guardano le partite, no? Sul divano, si confrontano e tutto, quindi questo è anche un bisogno comprensibile, no? Però certo, poi mandare dei giocatori in campo e prendersi la responsabilità, quello è un altro discorso. Conte è stato chiaro, no? Ha detto anch'io sono un amante del calcio, amo il calcio, però bisognerà prendere tutti gli accorgimenti. Credi che si sia fatto troppo rumore intorno al calcio oppure no? Ma il calcio comunque fa rumore da tanto tempo, non è una novità. Sì, sì, fa rumore, è giusto che lo faccia, siamo forti, io non mi metto in paragone perché comunque la nostra è una disciplina, no? Non è un gioco. Il calcio è un gioco, no? Un gioco bello, goliardico, divertente e tutto. La nostra è una disciplina faticosa che si impara giorno dopo giorno, si migliorano i dettagli. Un bambino che inizia ad approcciarsi alla scherma dopo un anno, due anni può fare le gare con il fioretto, quello di ferro. Prima inizia con il gioco, no? Il divertimento, poi con piano piano con l'essere messo in guardia, poi con il fioretto di plastica, poi con il fioretto di ferro, quindi comunque è un approccio più graduale, no? Sì, quell'altro... Non ci metto proprio. Sì. parla, dai. No, ma io apprezzo molto questa cosa, perché poi questa, questa presunta dialettica, no? Questa presunta rivalità fra, fra calcio e altri sport, secondo me non esiste. È chiaro che ci possono essere dei, dei budget diversi, è chiaro che se si paragona gli introiti rispetto al, al tipo di lavoro e al sacrificio, non c'è una correlazione. Però Elisa dice una cosa giustizia, ma anche Federica non è che abbia mai fatto cioè un discorso complessivo, secondo me, di cultura sportiva del nostro paese, e va incentivata la cultura sportiva a 360 gradi su tutti gli sport. Ma poi che il mercato sia diverso lo sanno pure quelli che giocano a badminton, cioè, ma guarda, scusa se posso interrompere, il diverso sta nel comprendere questo sport, per quale motivo la scherma, come altri sport cosiddetti minori, il rugby, non so, non arriva alle persone, perché ci sono delle regole, bisogna prima andarci a studiare delle regole, capirle e poi guardarlo. Quindi già lì ti fa capire che non è per tutti, non è per la massa, no? Il calcio lo capiscono quasi è molto tutti, più immediato, ma è un po' più facile, più immediato. Chiaro, ma è probabilmente la sua grande fortuna, Elisa, la fortuna della diffusione planetaria del calcio, proprio nella sua, probabilmente la sua semplicità, no? Nel fatto che è molto facile giocarlo, ti basta un pallone e quattro maglioni, e nel fatto che è molto facile intuirlo, comprenderlo. Volevo chiederti anche poi questo. Non è una questione economica, no? Cioè, no, chi ha più chi ha meno, voglio dire, il calcio appunto ha più introiti, ha più interessi, girano più soldi, e che li utilizzassero per le persone che ne hanno bisogno in questo momento, allora, no? Giusto, assolutamente. Elisa, invece a casa, domanda privata e personale, come stai vivendo con il tuo bimbo? Cosa gli stai dicendo in questo momento? Come gli stai spiegando questo momento? Allora, questo è un momento di grande crescita sua, compirà fra poco a luglio 3 anni, quindi è il momento delle domande, no? Anche a volte esistenziali. Mamma, che cos'è la bellezza? Mamma, che cos'è il silenzio, no? Io a volte faccio finta di non sentire, sto passando l'aspirapolvere, non ti sento. Troppo difficile. No, però gli rispondi cercando di dargli un po' un quadro giocoso e positivo, ma a tratti anche negativo, no? Della realtà, del momento in cui viviamo. E c'è tanto da imparare da questo momento. Cioè, da un lato c'è la mannaggia, no? Ci hanno chiuso dentro casa, non possiamo, io non posso lavorare, io non posso fare scherma, io non posso fare questo, io non posso fare. Dall'altro invece c'è l'opportunità di guardarci un po' dentro, no? Cosa che non abbiamo nel tempo di fare quando siamo presi da altre cose. Di stare con i bambini, di stare con la famiglia, di curare il nostro corpo, il nostro habitat, la nostra casa, no? Quindi vanno colte queste occasioni. Speriamo che comunque che finisca presto, abbiamo riflettuto molto a lungo. Grazie Elisa. Io vado a passare l'aspirapolvere, così non sento più niente. Che non so se il movimento congruo può essere allenante per la scherma, non credo. Assolutamente, io mi alleno anche quando non mi alleno. Tutto aiuta, pure il mocio. L'affondo con l'aspirapolvere, mi manca, dopo provo così mi strappo la schiena. Beh, grazie. No. Grazie Eli, a presto. Grazie a voi, ciao. Vabbè, Pierluigi, noi adesso ci salutiamo, ma domani naturalmente torniamo per riaprire questo lungo dibattito che ha riflessi anche all'estero, e io rimango convinto del fatto che qualcuno prima o poi comincerà, e su quella decisione di qualcuno tireremo i conti, Pier. Senz'altro, la vita ripartirà, su questo non c'è dubbio, con dei rischi, questo è indiscutibile, ma spero con dei rischi calcolati. Intanto è il vero tema. Intanto tutti a fare jogging insieme, io e te Cristiano Ronaldo, Elisa Di Francesca, ovviamente tutti a distanza, e andiamo al parco. Non so se si può con il paddle, ma non credo. No, il paddle no. Paddle no. Neanche all'aperto. Ma non dovrebbe mancare molto, dai. Non dovrebbe perché mancare. Alla fine prima partita dovrebbe essere vicino, il golf dovrebbe essere a un passo, perché insomma veramente c'è grande distanza, vediamo, dai. Ciao Pier, a presto. Ciao. Grazie per Luigi Pardo, io ringrazio anche Giorgio De Luca, grande ritorno, intanto torna in redazione insieme ovviamente a Claudio Schettone, il nostro autore, e ci sentiamo domani alle 2, naturalmente salutando anche Roberta Frisani. Ciao. La cosa più sensata sarebbe Champions non assegnata, Europa League non assegnata, Scudetto non assegnato, classifica all'ultima giornata comune a tutte le squadre, le prime quattro in Champions, poi in Europa League e retrocessioni. Però mi rendo conto che finiremmo in un caos di cause legali che non finirebbero più. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.